Componimento 130° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Poi che il camin m'è chiuso di mercede, per desperata via son dilungato, dagli occhi ov'era, i non so per qual fato, riposto il guidardon d'ogni mia fede. Pasco il cor di sospir, ch'altro non chiede, e di lagrime vivo a pianger nato. Né di ciò duolmi, perché in tale stato è dolce il pianto, più ch'altri non crede. E sola ad una imagine m'attegno, che fe non Zeusi o Prasitele o Fidia, ma miglior mastro e di più alto ingegno. Qual Scitia m'assicura o qual Numidia, s'ancor non sazia del mio esilio indegno, così nascosto mi ritrova invidia. Fine del componimento.